sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Parlare di privatezza o di privacy, in un'accezione che ormai è diventata comune anche alle nostre latitudini, è un tema che dà sempre grandi suggestioni al nostro pubblico. È divertente parlare di qualcosa che in realtà vorremmo tutti tutelare, ma siamo colti allo stesso tempo da un sottile piacere nel divulgarlo, nel renderlo pubblico. E più ci poniamo il problema, dato l'avanzato sistema di ripresa quotidiana di ogni nostra azione di tutelare la nostra privatezza, più noi ogni giorno, attraverso mille rivoli volontari, piacevoli, divertenti, ludici, mettiamo a disposizione del nostro prossimo un'infinità di nostri dati. Alcune volte lo facciamo in maniera del tutto inconsapevole, altre volte lo facciamo con grande determinazione. Oggi esistere significa essere rappresentati, avere splendide icone della propria esistenza, preferibilmente tutti vorremmo che la televisione, i giornali, i mezzi di comunicazione di massa si occupassero della nostra misera persona, perché sia e risulti meno misera o rappresenti lo splendore che noi pensiamo di incarnare dentro di noi, ma a disposizione ognuno di noi ha tante piccole infinità di fare un network personale in cui mettere le proprie foto e le proprie informazioni. Esiste però una categoria particolare della nostra esistenza in cui nessuno di noi ha voglia di scherzare, in cui meno informazioni diamo e più siamo contenti e più siamo tranquilli. Si accomodi. Il suo nome, prego? John G. Public. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. Sua zia di che si occupa? Io non me lo ricordo. Ha detto di aver lavorato in un ufficio. Si occupava di produzione o di servizi? Produzione. Si trattava forse di prodotti industriali? No, mi spiace, è del tutto fuori strada. E il tempo concesso è ormai scaduto. Non è riuscita a indovinare qual era la mia occupazione ed è solo per compiacerla che le dirò che cosa facevo. Facevo scarpe da scale mobili per la gente che si era stufata di portare le scarpe da ascensore. La privacy legata al mondo del lavoro, quella porzione della nostra esistenza in cui ogni nostra azione è sottoposta a controllo, perché dobbiamo essere valutati nella nostra capacità di creare profitto a chi ci corrisponde uno stipendio, di raggiungere i giusti obiettivi professionali, di difenderci da quelle che sono naturalmente le normali, anche se non ufficiali, insidie dei colleghi, della concorrenza e via dicendo. Il lavoro è qualcosa che si presenta sempre come un obiettivo difficile a raggiungere, difficile a perseguire, difficile a mantenere, ma esiste una circostanza in più: la sorveglianza e il rispetto, i limiti della propria privatezza nel mondo del lavoro. È giusto che chi ci faccia lavorare, che ci dà un'occasione di lavoro, abbia una possibilità di controllo sulla nostra attività, ma qual è il confine tra la liceità di controllare il nostro lavoro e la possibilità di ottenere su di noi delle informazioni che in realtà non è giusto che il nostro datore di lavoro abbia? 800 24 00 24 è il numero verde, cominciate a chiamare. Oggi abbiamo in studio, come sempre quando parliamo di questo tema così caro al nostro pubblico, il garante per la privacy, il professor Francesco Pizzetti. Professor, buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo già raccolto varie domande estrapolate dalle precedenti trasmissioni che abbiamo fatto con il garante, gliene comincio a porre qualcuna e poi vediamo di cominciare a fare un punto di questo limite che sembra molto difficile essere stabilito tra ciò che si può giustamente usare come strumenti di controllo della produttività, della lealtà professionale di un dipendente, ciò che in realtà non si può. Ci domandano ad esempio molti se i capi possono controllare i dipendenti tramite mail o cellulari aziendali. Questo sembra una domanda fondamentale. Ma sa, tutta la tematica che oggi ci occuperà è dominata anche dalla posizione oggettivamente ineguale del datore di lavoro e del lavoratore. da un lato e dalla esistenza di molte altre normative, cominciando dallo Statuto dei lavoratori, che costituiscono la cornice di questi problemi. Dentro questa cornice c'è anche la questione del trattamento dei dati personali, che però ha questa specificità. Ora, per esempio, per quanto riguarda le email, noi ci troviamo di fronte a questa situazione. L'email è certamente un mezzo di lavoro, ormai sempre di più, ma è anche uno strumento di comunicazione. In quanto strumento di comunicazione, come la posta che si riceve indirizzata alla persona, è coperta dalla garanzia costituzionale che dice che non è possibile aprire la corrispondenza se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Quindi come risolvere il problema? Abbiamo fatto su questo una linea guida, in questa materia negli ultimi anni abbiamo fatto linee guida proprio per dare degli indirizzi, ma in sintesi per le email si dice ovviamente che è opportuno, se è possibile, dare due diversi indirizzi email, uno che possa essere usato dal lavoratore per finalità strettamente personali e l'altro aziendale, in modo che il lavoratore stesso induca e inviti chi vuole avere con lui una corrispondenza di tipo personale a usare quella personale. Perché? Perché c'è pur sempre il problema che se poi il lavoratore si assenta e sulla sua email ci sono comunicazioni che interessano l'impresa o all'ufficio, qualcuno deve poterle conoscere. Allora a questo fine abbiamo dato il suggerimento che sia il lavoratore stesso a indicare chi eventualmente in sua assenza può accedere alla email, persona di sua fiducia all'interno dell'organizzazione o in alternativa. In ogni caso sappiamo benissimo che chi gestisce il sistema informatico dell'azienda può comunque in ogni momento fare qualsiasi operazione, inutile illuderci, sulle caselle di posta elettronica dei dipendenti. Beh, questa è ancora un'altra questione. Intanto questa che stiamo esaminando, cioè io sono un dipendente pubblico o privato, devo sapere che la mia email deve essere da un lato protetta perché può esserci comunicazione personale, dall'altro può essere uno strumento di interesse dell'azienda o dell'ufficio. Allora le nostre linee guida invitano innanzitutto a chiarezza da parte del datore di lavoro nella gestione. Suggeriscono l'ipotesi, per esempio, di separare un'email personale e un'email aziendale, di invitare il lavoratore in caso di sua assenza a dire chi ha l'accesso, a indicare le modalità o i casi in cui l'accesso può essere fatto dal datore di lavoro, in una policy aziendale che sia anche condivisa, se possibile, con le organizzazioni sindacali, se ci sono, con i lavoratori in generale. E che questa policy sindacale, policy aziendale o dell'ufficio, sia resa nota ai lavoratori attraverso una pubblicazione nell'albo aziendale, insomma che le regole del gioco siano chiare, fermo rimanendo che ogni invasione della email, anche per esigenze aziendali, rischia di incidere su un aspetto fondamentale della libertà di comunicazione come uno degli aspetti della libertà personale. C'è anche da dire, professore, che un dipendente che usa un'email aziendale, quindi con l'estensione dell'indirizzo, con il nome, il brand dell'azienda, ogni volta che comunica a nome dell'azienda, dovrebbe anche considerare questo. Infatti c'è anche questo altro aspetto, molte volte, specialmente negli uffici pubblici, ancora più che nelle imprese private, proprio questa è l'osservazione che ci viene fatta, ma se esce con il brand Archivi di Stato di Torino una comunicazione che l'utente, il ricevente, può immaginare essere vedimata dal capo dell'ufficio, il capo dell'ufficio può avere qualche perplessità. Per questo le nostre linee guida, per questo le policy aziendali, per questo l'esame in dettaglio, perché poi da organizzazione a organizzazione, da tipo di attività a tipo di attività, anche questa tematica può variare. Però il principio è in sostanza che l'email è una forma di comunicazione, quindi è protetta in linea di massima da ingerenze di terzi, anche del datore di lavoro, anche del capo dell'ufficio. Poi si tratta di trovare il giusto contemperamento. Invece l'altra questione che lei citava... Del telefonino. No, quella del fatto che comunque le email, come tutti gli strumenti telematici usati in un sistema a rete, hanno un qualcuno che può vedere tutto. Questo ci preoccupa moltissimo, è la figura dell'amministratore di sistema di cui abbiamo già parlato altra volta e faremo quanto prima, penso già in questo collegio cominceremo a esaminare uno schema di provvedimento, un provvedimento proprio sugli amministratori di sistema, cioè su queste figure che hanno per necessità organizzativa l'accesso a tutti i dati trattati in rete da tutti gli utenti della rete aziendale, quindi possono sapere tutto, le email, qualunque altra attività compiuta sulla rete, e che ovviamente devono essere, come dire, scelti, selezionati, vigilati, controllati secondo modalità atte mette a dare una sicurezza sul loro comportamento. Su questo abbiamo avuto molte telefonate, email, adesso non ho nessuna sotto mano, di amministratori di sistema che un po' si ribellavano al fatto, dice, cosa volete fare, l'ordine degli amministratori di sistema, facciamo un altro ordine professionale. No. Si sentono già loro in grado di dare tutela, dicono almeno, poi se qualcuno è in ascolto 800240024 ci parliamo volentieri. Guardi, il primo obiettivo che io vorrei raggiungere, i miei colleghi vogliamo raggiungere, è che la società italiana abbia chiara l'esistenza di questa figura. Che chi ha la responsabilità di un'organizzazione complessa non lo scambi per una figura che è poco più di un elettricista, di un tecnico, ma si renda conto di tutte le complessità dell'attività che fa. Ovviamente immagino che qualunque capo di azienda, se deve scegliere una società di vigilanza e di guardie armate a vigilanza dei locali, si informa e assume la decisione con il dovuto senso di responsabilità, così come se deve scegliere il contabile, così come deve scegliere l'amministratore della contabilità aziendale. La mia primo obiettivo è che si adottino cautele, attenzioni, senso di riflessione analoga anche per la scelta dell'amministratore. Abbiamo al telefono Gaetano che ci pone una questione interessante, secondo me. Gaetano è un avvocato. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Nicoletti. Qual buongiorno. È il problema? Allora, il problema è questo. Noi qualche anno fa è stata varata una legge dal governo che ci impone di tenere i fascicoli nei nostri armadi e assolutamente sulle nostre scrivanie. Questo per tutelare la legge per tutelare la privacy dei nostri clienti, perché qualcuno, altri clienti che contattano noi nello studio, potrebbero intravedere sulla copertina o potrebbero addirittura mettere le mani nel fascicolo in un attimo di distrazione. Sì, pratica perché... Nicoletti per furto di noccioline, chiaro, a me non farebbe piacere. Certamente. Allora, ci impongono addirittura di non tenere sulla scrivania i fascicoli. Ora, lei immagini che noi, quando andiamo alle udienze, le udienze sono pubbliche, in quel caravanseraglio di avvocati e di parti private, tutti possono mettere mani nei fascicoli, non solo, ma addirittura aprirli e vedere di che oggetto si tratta la controversia. Quindi questo è il grandissimo controsenso. Che senso ha imporre a noi di tenere i fascicoli chiusi negli armadi a tutela della privacy, quando poi alle udienze pubbliche, dove succede quello che succede, lei può immaginare, avrà frequentato, sì, sicuramente, figuriamoci, tutti possono mettere le mani nei fascicoli, addirittura farli sparire e poi farli ricomparire, come spesso anche accade. È un controsenso incredibile. Ecco, guardi. Le risponde il professor Pizzetti. No, avvocato, non è che sia un controsenso, è il disastro del paese, per cui nei tribunali capita di tutto e di più. Certo, abbiamo appena fatto un provvedimento sul Tribunale di Roma, dopo un anno di ispezioni, che indica tutta una serie di misure, fra le quali ovviamente proprio quella di tenere i fascicoli chiusi negli armadi e che il cancelliere vigili che l'avvocato si veda solo il suo fascicolo e non quello di tutti i suoi, di tutti gli altri avvocati, suoi concorrenti, come lei sa bene che qualche volta capita. Allora, noi semplicemente diamo delle regole di normale deontologia professionale. Lei sa benissimo, perfettamente, che quello che noi indichiamo può capitare, no? Un suo cliente viene e magari scopre che il suo concorrente ha anche lui una controversia aziendale rilevante, ne può trarre informazioni nella sua attività e lei fa una figura non adeguata di fronte a tutti e due i clienti. Quindi, in fondo, la regola che le diamo interessa prima di tutto a lei. Credo che addirittura dovrebbe essere, come dire, superfluo darla, no? Un avvocato, chiaramente, se riceve il cliente per un'audizione nel suo studio, avrà la cautela di evitare che ci siano i fascicoli degli altri clienti. Detto questo, è chiaro che le nostre regole molte volte trasformano in obblighi giuridici quelle che prima di tutto sarebbero regole di deontologia professionale, come quando diciamo ai medici di custodire i dati sanitari dei loro clienti, ci vuole la privacy per dirlo, è utile che la privacy lo ricordi, dobbiamo tradurlo in una norma giuridica, lo traduciamo in una norma giuridica. Quanto ai tribunali, quello che lei dice mi trova del tutto concorde ed è uno dei motivi della mia indignazione per il sistema paese, che su strutture delicatissime come i tribunali, gli ospedali, i laboratori sanitari e così via, tollera in troppe parti del paese una carenza di strutture organizzative tale da determinare i fenomeni che lei cita. Noi abbiamo fatto provvedimenti. Li facciamo, continueremo a farli, io so che sono grida manzoniane, ma noi non possiamo fare che il nostro mestiere e, come vede, io ne sono perfettamente consapevole, ma credo che comunque almeno indicare e denunciare con cose che macroscopicamente non vanno attraverso i provvedimenti che sono il nostro unico strumento, sia un nostro dovere. Il ministro Brunetta si sta attrezzando con gli emoticon, potranno mandare degli sms con le faccine disgustate, evidentemente sarà un sistema per segnalare il loro disappunto. Manuel, buongiorno. Buongiorno, ascolti, complimenti innanzitutto per la trasmissione e per la radio in generale. Grazie. Ma ascolti, io stavo ascoltando la vostra discussione per quanto riguardava le email. E così nell'ascoltarmi facciamo un ragionamento di questo tipo, da profano. Allora io penso a un'azienda che fa dei mobili e l'operaio che opera sul macchinario non deve far sapere al suo titolare se sta facendo il mobile di casa sua o un mobile dell'azienda. Adesso ribalto la situazione. Diciamo che c'è un dipendente che lavora al computer e il suo titolare non può sapere se sta giocando a 3-7 col computer oppure se sta facendo la contabilità. Adesso vado alle mail. Le mail dell'azienda. L'azienda fornisce questo strumento per comunicare all'interno dell'azienda e al di fuori, ma è uno strumento aziendale. Perché il titolare non può sapere o vedere qual è l'utilizzo di queste mail? Lei dice il titolare in fondo paga l'hosting, paga il server, paga tutto il servizio e gli appartiene anche quel servizio. Esattamente, poi le mail personale uno la vedrà a casa, non la vedrà in azienda, perché in azienda deve lavorare. A casa, quindi oddio, non è farsi un'email gratuita. Sono 30 secondi di tempo, adesso. Ho capito, ma non deve utilizzarle in azienda. Sì, vabbè, uno può anche mandare un'email mentre lavora, adesso siamo abbastanza multitask in questo punto. Sì, ho capito, però allora poi non ci dobbiamo indignare se il titolare dice se utilizzi attraverso uno strumento, io per sbaglio lo vedo, ho la possibilità di vederlo, l'errore è stato tuo, non è chiaro, non è chiaro. Utilizzarlo. È chiaro, sentiamo adesso Stefano, così mettiamo altra carne al fuoco, poi avrà modo il professor Pizzetti a rispondere a tutti. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere questo, che non è inerente all'email, ma a documenti cartacei. Nel senso, io ho subito un controllo di 6 mesi, che il mio, diciamo, superiore mi chiedeva, minuto per minuto, delle attività che io facevo. Ma era condivisa questa attività di controllo? Nel senso, lei era consapevole? Assolutamente no, mi è stata, diciamo, obbligato a fare questo tipo di report, capito? E quindi ho dovuto... Cioè, il suo lavoro era segnalare al suo datore di lavoro cosa stava facendo, perché ogni minuto un report faceva solo quello. Assolutamente, assolutamente. Cioè, lei scriveva, sto scrivendo il report del minuto tal dei tali. No, sto facendo questo, sto... Allora, resti pure in attesa un attimo. Continuiamo dopo la pausa per le informazioni della borsa, mi sembra che l'argomento sia interessante anche nel suo essere paradossale. 800 24 00 24, stiamo parlando di privatezza, di sorveglianza, di mondo del lavoro e mondo della propria sfera privata, e quando questi due universi vanno in collisione forse è il caso di fare un punto. Ci eravamo interrotti con la telefonata di Stefano, che svolge un singolare lavoro, ogni minuto deve comunicare al suo datore di lavoro cosa sta facendo. Ma si può sapere più precisamente, Stefano, che lavoro faccia lei? Funzionario commerciale, ma l'ho dovuto fare, essendo obbligato, per 6 mesi circa. Poi dopo io ho aperto una storia legale, di conseguenza attualmente, dopo qualche anno, siamo ancora dietro a questa faccenda. Ma era un provvedimento mirato alla sua persona o generalizzato? Assolutamente sì, anche se sono a conoscenza che sia stato fatto anche ad altri, ma che non hanno avuto... tra virgolette, cioè le è stato detto a un certo punto, da oggi ogni minuto ci dici cosa stai facendo. Esattamente, per 6 mesi. Ma lei aveva dato adito a, diciamo, disattenzioni sul suo lavoro? Ma no, perché dai risultati che poi dopo io portavo questo non si evinceva, quindi... Sì, ma ogni minuto, Stefano, sembra, si rende conto, una barzelletta, perché ogni minuto il tempo di aprire la posta, scrivere l'indirizzo. Ho dei fogli Excel completamente compilati e redatti da me e inviati, perché appunto ogni minuto io 8.30, 8.33 ricevuto telefonata, 8.45 fatto questo. Cioè lei bloccava anche la persona, doveva poi controllare probabilmente, non so se poi lui la controllasse o meno, comunque io li inviavo a fine giornata e va bene. Per tutti i giorni. Ci sono varie operazioni, varie pressioni, non entro nello specifico, vengono fatte spesso i lavoratori anche per dissuaderli molte volte a restare al loro posto. C'è qualcosa da aggiungere, professor Pizzetti? Beh, sulla prima telefonata, più che su questa, che è un caso specifico, non a caso c'è un'avvertenza giudiziaria in corso. Sull'altra, quella che dice ma l'operaio che costruisce un mobile deve dire se lo fa per casa sua o no, l'email. Il problema è che l'email può anche essere oggetto di invio. Io per esempio, ovviamente come professore universitario, un'email unito. Normalmente si sa di tutti noi che l'università presso la quale prestiamo servizio è un indirizzo utilizzabile, quindi posso ricevere e ricevo molte comunicazioni di colleghi o di altri soggetti che non hanno nulla a che vedere con la mia attività di servizio, ma sono comunicazioni di tipo personale, attinenti alla ricerca o anche ad altro tipo di cose. Ora, sul cartaceo che succede? Che negli uffici o nelle aziende si separa quello che è la posta mandata all'ufficio, anche se nominativa, dalla posta riservata alla persona. E così si risolve il problema. Cioè si sa che la posta che si riceve si autodefinisce, questa è per la persona, questa è riservata all'ufficio. Nell'email non è così facile fare questa distinzione. Allora, se il datore di lavoro entra per necessità aziendali nell'email, ha buonissime probabilità di trovare qualcuno che ha usato quell'indirizzo per una comunicazione personale. Che succede? Questo è un problema. Evidentemente è un problema in sé, è il meccanismo delle email che suscita questa questione. E allora, appunto, di qui le nostre linee guida. Fermo rimanendo che c'è un diritto costituzionale alla riservatezza della comunicazione. Nessuno può aprire una posta, una busta cartacea mandata a me, riservata alla mia persona, neanche mia moglie, neanche un mio parente. La stessa cosa vale per l'email. L'uso dell'email all'esterno, anche la Cassazione dice che un moderato uso dei mezzi aziendali fatto anche a finalità personali, moderato rispetto all'attività lavorativa e ai costi che può comportare per l'azienda, è tollerato. Quindi che qualcuno possa usare la sua posta aziendale anche per comunicazioni personali è possibile. Per esempio, per noi universitari ritorna il medesimo discorso. Quindi la cosa è molto complicata ed evidentemente non è facile da risolvere. Per quello che abbiamo fatto la linea guida, abbiamo detto caso per caso, azienda per azienda, ufficio per ufficio, fermo rimanendo che non è possibile un controllo indebito sulla comunicazione personale, ma deve essere consentita di salvaguardare le esigenze. Se posso aziendali. Io dare un consiglio, ma semplicemente pratico, visto che molte volte spesso ricevo tantissime mail di insulti, soprattutto la stagione passata, di persone mi insultavano anche in maniera molto colorita e divertente, però con la casella di posta elettronica di titolate ditte. Io rispondevo semplicemente: beh, almeno se mi vuoi insultare fatti una casella privata, perché potrei rimandare questa mail indietro al tuo datore di lavoro e crearti dei problemi. Quindi fatevi una casella gratuita, ce ne sono mille possibilità, e fateci quello che volete. Bruno, velocemente. Sì, molto velocemente. Io sono direttore di un ministero e abbiamo risolto il problema molto semplicemente, perché forse non tutti sanno che una casella postale può essere creata anche a livello di ufficio, dando l'accesso a più persone. Se uno vuol dare una casella privata, la può dare, però non è indispensabile, per cui tutta la posta di ufficio passa per caselle, diciamo, pubbliche a livello di unità organizzative. Se poi i dipendenti che chiedono la privata la possiamo dare, facciamo solo un controllo intelligente sulla quantità di posta che transita. Perché siete in linea con quelle che sono linee guida che diceva assolutamente. Prima? Assolutamente. Poi noi abbiamo aggiunto tutto il controllo di gestione con tutti i fascicoli informatizzati, per cui diciamo si può controllare. Oddio, a me sembra ancora un po' singolare, sinceramente, ripeto, con la facilità immediata che ognuno ha di crearsi una casella libera, indipendente, gratuita e farci quello che vuole, ci sia ancora il problema di dover usare per forza la casella del datore di lavoro, creare questo meccanismo interessante ma pur complicato e pur anche abbastanza oneroso da gestire, in due server separati, due caselle separate di posta elettronica, comunque è lo stesso server, basta solo dare l'autorizzazione, sì, a livello di sistema. Sì, va comunque, diciamo, in due partizioni diverse, deve comunque creare un'operazione di programmazione. No, comunque no, guardi, le assicuro, no, la stessa identico server, solo se basta mettere l'accesso ad un singolo utente o a più utenti. È una cosa che non costa assolutamente nulla. Va bene, allora, se questo risolve il problema siamo tutti contenti. Grazie. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Lei ha avuto problemi perché le controllavano? Io ho avuto problemi per il semplice motivo che purtroppo, ecco, ho avuto un periodo, e ho ancora tuttora un periodo di mobbing in azienda, uh-huh, e quindi sono stato convocato per un episodio che, insomma, uno dei tanti episodi che cercavano, insomma, di mandarmi per azienda, ancora non ci sono riusciti, e diciamo che il mio direttore del personale si presentò con tutto il mio traffico internet. Andava sui siti zozzi, queste cose? No, qua. Assolutamente, noi abbiamo un firewall in azienda, quindi diciamo che automaticamente e controllava anche le email personali che venivano inviate. Quindi le hanno contestato con un tabulato le sue navigazioni non in siti... Più navigazioni, più che altro, siccome in quel periodo ovviamente cercavo aiuto, quindi comunicavo con magari studi di avvocato, eccetera, usando mia email personale via web, mi contestarono il fatto che io in orario di ufficio navigavo e usavo la mia posta personale. Professor Pizzetti, questo è un comportamento... Beh, certo, questi sono comportamenti complicati poi da definire, perché abbiamo detto che c'è il moderato uso dei mezzi aziendali anche per finalità private, si tratta poi di verificare. Certamente il fatto di però accedere ai dati di traffico in modo da profilare la navigazione in internet costituisce un comportamento che assume caratteri di illecità particolarmente significativi. Poi ci sono molte telefonate che ora gruppo in delle domande. Voglio dire, sì, quello che è sicuramente possibile è che un'azienda possa interdire l'accesso a determinati siti, quello anche qui con una dichiarazione di policy aziendale chiara, proprio a evitare che si sprechi del tempo inutile accedendo a siti che sono del tutto estranei all'attività normale dell'azienda. Molte domande, vorrei raggruppare, fanno sempre riferimento a strumenti di lavoro che però sono strumenti che possono essere, se uno vuole, anche fortemente invasivi. Ad esempio il BlackBerry aziendale, il telefonino palmare aziendale, addirittura le automobili aziendali con un rilevatore GPS della loro posizione che è giustificato con il fatto che l'assicurazione richiede, diciamo, delle polizze assicurative più basse, quindi la società cerca di risparmiare, però di fatto controlla i propri dipendenti. Ecco, questi strumenti elettronici, quali sono i limiti che sono utilissimi per lavorare, ma allo stesso tempo tracciano fortemente? Uno può illudersi di non essere tracciato sull'auto aziendale? Beh, bisogna anche distinguere un attimo, perché qualunque telefonino è un localizzatore, come sappiamo, però lo diventa se io acquisisco i dati di traffico telefonico e li uso ai fini di vedere dove era localizzato il telefonino, o nel caso in cui il telefonino sia muto, cioè non produca dati di traffico telefonico, se adotto sofisticati strumenti di controllo della posizione del telefonino. Allora, il problema che abbiamo detto è l'azienda non può ovviamente usare i dati di traffico telefonico a fini di localizzare il dipendente, che poi il telefonino aziendale sia di per sé un localizzatore è inevitabile, se no non è un telefonino mobile. Quanto al BlackBerry, mi preoccuperei di più del fatto che il BlackBerry, per la sua stessa struttura tecnologica, prevede l'archiviazione in un sito, tra l'altro in Canada, di tutte le email che vengono mandate e ricevute tramite BlackBerry, che non dell'attività aziendale, che comunque di nuovo è vietata in linea di massima in ordine all'utilizzazione dei dati di traffico come dati di localizzazione. Melog 2.0. Qualche mese fa stavo con un mio amico a prendere un caffè in un bar sotto casa e niente, passa una macchina con questa sorta di telescopio montato sul tetto. Io avevo già visto, diciamo, il servizio Street View di Google in altre città degli Stati Uniti, infatti mi attira subito l'attenzione e poi vedo il logo sulla fiancata. Ho aspettato il lancio del servizio anche su Roma. E l'altra settimana, appena uscito, sono andato subito a cercare il bar. Lì ci siamo io e il mio amico, in bella posa, seduti al tavolino, che guardiamo l'obiettivo passare. Il viso oscurato, ma insomma riconoscibili dagli amici. 800240024, stiamo parlando di sistemi di sorveglianza nei posti di lavoro, ma ci si rende conto, come questo nostro ascoltatore che ci ha lasciato la sua testimonianza, che anche per strada comunque possono esistere dei sistemi che rilevano la nostra presenza, non in maniera sistematica, non in maniera volontaria, ma in maniera a volte anche del tutto casuale. Uno di questi è il nuovo servizio di Google Street View, che fotografa le strade anche del nostro paese. Sono arrivate anche le macchine di Google che stanno fotografando, hanno già mappato alcune città italiane e il sistema è molto divertente. Io sono andato a vedermi ieri il portone di casa mia, c'è una meravigliosa ragazza con il telefono che telefona, è sempre lì, ferma, immobilizzata, probabilmente sono mesi che sta lì, però questo, se questa ragazza avrebbe casomai rappresentato qualcosa di non raccontabile, sarebbe imbarazzante forse per me o per chi abita nel mio palazzo vederla lì sotto, non so, vediamo come finisce la storia del nostro amico. devo dire che la cosa mi ha fatto piacere, che mi ha fatto piacere essere stato immortalato nella mappa delle mappe ormai. È una bella cosa piacevole, rilassata, perché invece so di altre persone che è successo che sono stati immortalati magari in motorino, nell'affanno del traffico quotidiano, insomma, mi fa piacere. Diciamo, cercarmi per riconoscermi chi è che lo fa, anche perché effettivamente per chi non conosce o conosce poco, con l'oscuramento del software di Google, diciamo, i dati sensibili, diciamo, non sono chiaramente riconoscibili. Io, giusto perché riconosco, so che stavo lì col mio amico, riconosco le sagome, riconosco i miei vestiti, ma e gli amici mi riconoscono, diciamo, nella sagoma, nella posa. Chi non mi conosce bene, è difficile che si passi tutte le mappe per cercare una qualche traccia. Ecco, vedo che poi alla fine l'occasione è quella di apparire in un luogo in cui si è rappresentati, quindi crea grande gioia. Le immagini di Google Street View sono delle immagini fatte ad altezza uomo, immaginate, come una macchina che passa e fotografa tutto ciò che si vede nelle strade italiane. Con un sistema poi molto interessante si può ricostruire una mappa di una città e percorrere la città per le sue vie. Ho al telefono Marco Pancini, che è responsabile dei rapporti istituzionali di Google. Buongiorno Pancini. Buongiorno a tutti. Ecco, questo Street View, che sembra al momento essere più un gioco divertente, però deve comunque dare alcuni piccoli provvedimenti di sicurezza per chi, non come il nostro amico, non se la senta, non abbia voglia di vedersi immortalato di fronte a un portone o lungo una strada. Vi siete già posti questo problema? Certamente, nel senso che qualsiasi servizio che noi lanciamo viene preceduto da una serie di verifiche che facciamo in tutti i paesi in cui verrà lanciato, e una serie di incontri. Tra l'altro abbiamo incontrato anche il garante italiano, saluto il professor Pizzetti, per discutere qualsiasi tipo di problema e soprattutto per fare in modo che gli utenti che poi utilizzano questo servizio ne possano trarre soltanto le utilità e non i problemi. Ecco, a cosa dovrebbe servire questo servizio? Ecco, esatto, questo è il punto principale. Per noi questo servizio ha due utilizzi importantissimi. Il primo utilizzo ludico, permettere di girare le strade di una città a noi lontana esattamente come se noi stessimo in quel luogo, quindi dare questa sensazione di viaggio all'interno delle vie di città meravigliose come possono essere Roma, Firenze e Milano e tutte le altre città del mondo in cui abbiamo lanciato, permettendo di vedere i luoghi, permettendo di magari anche pensare a un proprio viaggio, e quindi questo è il primo utilizzo. Il secondo utilizzo. Io so già di persone che vanno a guardare il pub dove hanno passato i loro anni migliori, ai tempi dell'università, e si commuovono, ma pub sto parlando di posti lontani, non certo qui in Italia. Quanta parte di mondo state coprendo, avete già coperto? Abbiamo coperto praticamente tutte le città più importanti negli Stati Uniti, stiamo coprendo tutte le città più importanti in Europa e poi ci allargheremo anche alle piccole città, perché noi crediamo fortemente che uno degli utilizzi maggiori potrebbe essere per le piccole città che hanno degli screen. Sto pensando a Mantova, sto pensando a Bari, sto pensando a città italiane fantastiche, di farsi conoscere in tutto il mondo e quindi di attirare turisti e attirare attenzione. Ecco, ogni quanto rifate il giro in questa vostra macchinetta per rifotografare e aggiornare le mappe? Allora, dipende moltissimo dalle città, però diciamo in un range che va da un anno e mezzo a 2 anni. Ogni 2 anni cambia, quindi per 2 anni uno rimane congelato. Ecco, professor Pizzetti, rispetto a Google Street View, che è un gioco divertente, interessante tutto, però mi sembra che qualcuno non sempre possa avere questa voglia, questo desiderio di farsi vedere in finestra, farsi vedere al portone, farsi vedere per 2 anni fisso in questa immagine. Vi siete posti questo problema? Sì, come è stato detto, ce lo siamo posti. Io ho fatto anche delle dichiarazioni ai giornali già nel 2007. Devo dare atto che alcune delle indicazioni che erano state date in queste interviste sono state rispettate. Noi abbiamo detto con chiarezza che non devono essere conoscibili i volti nelle targhe dei veicoli, infatti c'è l'oscuramento sia dei volti che delle targhe. Il problema si sta ponendo non solo in Italia, anzi noi arriviamo dopo la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, nel quale il servizio è stato lanciato più ampiamente di quanto non sia avvenuto ancora in Italia. I garanti inglese, francese e spagnolo già hanno esaminato questa tematica. In linea di massima la questione si presenta così: le persone hanno il viso oscurato, le targhe dei veicoli sono cancellate, quindi alcuni accorgimenti minimi per tutelare la privacy sono adottati. Ovviamente che succede? Che chiunque può essere riconosciuto da chi già lo conosce. Questo il caso che ci è stato segnalato era uno che riconosceva se stesso, quindi sapeva come era vestito e quindi facilmente vedeva: ma quello sono io, avevo quella maglietta, quel giorno c'era il mio amico. Quello che noi vogliamo tutelare è la conoscibilità facile, la possibilità da parte di chi non sapeva come era vestito quel giorno quel signore, dire: ma quello è lui e guarda che era lì. E questo sostanzialmente avviene. Google si è anche impegnato, siccome possono esserci, anzi loro stessi dichiarano un 20% di errore potenziale, cioè di visi che non vengono cancellati per un errore tecnico, di targhe che non vengono cancellate, a ottemperare immediatamente alla segnalazione, richiesta di cancellazione dell'interessato che segnali il fatto, e noi verificheremo che questo avvenga realmente. Ovviamente non sono fotografie in tempo reale, un margine di riconoscibilità soprattutto da parte di chi conosce nel piccolo nucleo è oggettivamente possibile. Le pongo una domanda, Pancini: se io volessi togliere quella signorina sotto casa mia, perché so che è una dipendente di una società che fa casting, che sta al piano sotto e via dicendo, cosa dovrei fare? Ecco Gianluca, posso rispondere io a questa domanda? Sì, perché sì, noi sì. Abbiamo preparato un sistema di segnalazione all'interno dell'immagine, quindi direttamente dall'interno dell'immagine, cliccando su un link, direttamente è possibile accedere a un sistema di segnalazione, segnalarci questa immagine e permetterci di oscurarla definitivamente in modo da non avere nessun altro tipo di problema. Ti dirò di più però, come diceva giustamente il professor Pizzetti, il software ha un margine d'errore, in questo caso c'è anche un margine d'errore simpatico. Se andate su l'immagine di Piazza Santa Croce Firenze, vedrete che la statua di Dante è oscurata perché il software ha riconosciuto il suo volto. Purtroppo Dante non ci può segnalare la sua intenzione di tornare indietro e quindi dimostrarsi a tutto il mondo. Quello che invece io credo che dovremmo chiedere a Google, un po' tutti i garanti, e comunque noi apriremo ovviamente una riflessione, anche perché correttamente l'avvocato di Google Italia ci ha chiesto se dovranno notificare o no al garante e quali eventuali accorgimenti ulteriori debbano essere adottati in base alla legge italiana, e risponderemo facendo una riflessione adeguata. Abbiamo anche già segnalazioni di alcune organizzazioni di consumatori, quindi è una pratica sulla quale stiamo riflettendo, ma già posso dire che a mio giudizio è necessaria un'adeguata informativa, che io interpreto nel senso che sia necessario prevedere necessariamente che la macchina che sta facendo le riprese sia facilmente segnalabile e sia riconoscibile, cioè che io nel momento che la macchina sta passando possa vedere che c'è questa ripresa in corso, cosa che oggi non è così chiara perché il logo pare essere troppo piccolo. Quindi credo che per esempio una prima misura che sicuramente debba essere adottata con urgenza quando si procederà ancora è segnalare con tutta evidenza chi si trova casualmente nella strada nel momento in cui passa la macchina che sono in corso riprese, in modo che uno possa decidere liberamente se correre il rischio di essere ripreso o preferisce invece cambiare strada. Siamo arrivati alla fine, professor Pizzetti, non è che la voglia interrompere, però riprenderemo questo argomento, però mi sembra di aver capito una cosa, che in realtà se tutti potessero vedere la macchina che riprende, che mette nelle mappe, invece che scappare farebbero ciao con la manina e farebbero di tutto per entrare in queste immagini. Non lo so, dipende se sono correttamente informati di cosa la macchina fa. Quindi c'è bisogno di un'informativa chiara, come stiamo facendo, su cos'è questo servizio, e che la macchina si autosegnali in modo evidente, poi vediamo la gente cosa preferisce. Pancini, proprio un secondo, visto che siamo in sigla, potrete provvedere voi a segnalare in maniera ancora più evidente questa macchina con la macchina fotografica sopra? Ma in modo evidentissimo, ti dico che già oggi la macchina quando passa rappresenta un po' quello che rappresentava la carovana pubblicitaria nel Giro d'Italia, cioè è un avvenimento, in tutti i paesi viene segnalata, in tutte le città viene segnalata, abbiamo modo di farci riconoscere, senza problema potremo trovare anche sistemi ancora più efficaci per farci riconoscere, quindi non c'è assolutamente... Potreste problema. Mettere un messaggio come quello: donne, donne, arriva la routine, così vi sentono ancora da prima. Grazie Pancini, grazie professor Pizzetti, lasciamo la linea perché siamo andati già anche troppo oltre e non lo facciamo mai. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog.